La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alle iniziative di contributo al risanamento dello Stato italiano. Dall'oro alla patria, promosso da Benito Mussolini, ai versamenti volontari per risanare il nostro bilancio pubblico dell'associazione ARDEP. Ospite ai nostri microfoni Luciano Corradini, presidente dell'Associazione per la riduzione del debito pubblico. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla guerra del Vietnam, 15 anni di conflitto che coinvolsero gli Stati Uniti d'America, in aiuto al governo del Vietnam del Sud, contro le forze insurrezionali filocomuniste. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Il 18 dicembre del 1935, in una giornata gelida e piovosa, gli italiani donavano alla patria i loro anelli nuziali. Per il fascismo, colpito dalle sanzioni della Società delle Nazioni a causa della guerra in Etiopia, fu un plebiscito, un trionfo, una sorta di rivincita. E la propaganda del regime, come abbiamo appena ascoltato, si incaricò di magnificare oltre misura quell'esempio di patriottismo. L'oro alla patria. In tutto il paese si raccolsero 33.622 chili d'oro e 93.473 chili d'argento. Dalle fedi nuziali ai braccialetti, dalle catene alle coccarde. La regina Elena donò la propria fede. Il principe Umberto, il collare dell'Annunziata. Re Vittorio Emanuele, alcuni lingotti d'oro. Mussolini fece fondere i busti della Rocca delle Caminate. Pirandello offrì la medaglia del Nobel. D'Annunzio spedì la sua vera e una cassa d'oro. Marconi, l'anello nuziale e la medaglia da senatore. Poi semplici cittadini, in una sorta di mobilitazione di massa in favore del regime. Proprio quel regime che avrebbe da lì a poco precipitato il paese nel buio della Seconda Guerra Mondiale, a fianco dell'alleato nazista. Altre epoche storiche, tutt'altri contesti naturalmente, eppure ritorna alla mente quel lontano precedente nel rievocare a distanza di 20 anni, e qui siamo un po' più vicino ai giorni nostri, un altro esempio, chiamiamolo così, di patriottismo civile, ispirato a scopi e finalità del tutto differenti e ben più noti. Potremmo dire, contribuire con dei versamenti volontari a risanare il nostro bilancio. L'esempio è partito 20 anni fa, appunto, da un docente universitario di pedagogia, Luciano Corradini, che è stato anche sottosegretario all'istruzione del governo Dini. Il professor Corradini inviò il primo dei suoi 15 versamenti al tesoro, un conto corrente postale di 500.000 delle vecchie lire, sotto forma di contributo volontario al risanamento dello Stato, per offrire così il suo piccolo ma significativo contributo ad abbattere il nostro ingente debito pubblico. Era il 26 settembre del 1992. Un anno dopo venne costituita l'ARDEP, l'Associazione per la riduzione del debito pubblico. Un gruppo di docenti universitari, dirigenti e funzionari dello Stato, di aziende private e banche, uniti dalla comune volontà di lanciare un segnale, con questa convinzione. Il debito pubblico è il male comune degli italiani ed è giusto che tutti i cittadini diano il loro contributo, unendo i loro risparmi alle iniziative del governo. Contributi volontari diretti al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato per iniziare a colmare un buco che allora si avvicinava ai 2 milioni di miliardi di lire e che oggi sta per toccare quota 2.000 miliardi di euro. Un'iniziativa basata sulla riscoperta della coscienza civica e sul volontariato fiscale, in netta controtendenza rispetto alle tentazioni contrarie di rivolta fiscale. L'associazione venne istituita proprio in coincidenza con la presentazione di un libro, scritto da Paolo Mazzanti, dal titolo appunto «L'oro alla patria». Buonasera, professor Corradini, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie. grazie a lei per avermi tolto dall'anonimato. Allora, la sua iniziativa ci riporta a quel settembre di 20 anni fa, quando l'Italia rischiò la bancarotta. Noi abbiamo, in apertura della nostra puntata, rievocato quel lontano precedente dell'oro alla patria. Evidentemente è tutt'altra cosa la vostra iniziativa. Che esiti ha avuto la vostra coraggiosa provocazione? Ma gli echi sono stati inizialmente di stupore, divertito. Mi chiamò Maurizio Costanzo a una trasmissione del suo teatrino e mi fece sedere in una sedia con di fronte un certo professor Tremonti, Giancarlo Avete, allora presidente della Confindustria, della Valle, noto polemista attuale, e i quali erano stati invitati a discutere sulla situazione economica del momento. E quindi fece stupore il fatto che io avessi compiuto questo gesto solitario e avessi ottenuto una risposta dall'allora Presidente del Consiglio, Giuliano Amato, al quale avevo mandato una lettera in cui argomentavo il senso di questa operazione di per sé stravagante, perché non era concordata con nessuno, non c'era un ministero che lanciasse questa idea per fare... Mussolini voleva fare la guerra, conquistare la quarta sponda, noi volevamo fare la pace tra nord e sud, tra generazioni di anziani che avevano, anziani adulti, che avevano utilizzato malamente i soldi dello Stato, impegnando anche le risorse future. Volevamo appunto che ci fosse una gestione equilibrata che evitasse tra l'altro il sorgere di gruppi di persone che intendevano obiettare al fisco e quindi non pagare, perché ritenevano ingiusto dover pagare gli interessi di un debito che era stato fatto nel tempo e che nessuno ritiene di aver fatto in proprio, però il debito c'era. E allora come si poteva fare per denunciare? Già eravamo nell'epoca di Tangentopoli, c'erano molti che dicevano: questi qui sono tutti ladri, non diamo soldi a loro perché lo Stato è una cosa indecente. E noi dicevamo: certo, lo Stato ci tartassa, noi lo trattiamo male e quindi ci si comporta reciprocamente male, bisogna trovare un modo di dialogare che consenta di realizzare una gestione corretta e consenta di ottenere la pace fiscale. Ecco, la sua iniziativa ci riporta a 20 anni fa, quando l'Italia rischiò nella crisi del 92 di finire nella bancarotta sostanzialmente, e non a caso fu il periodo in cui, come lei sottolineava poc'anzi, il sistema politico crollò sotto i colpi di Tangentopoli. La vostra iniziativa si collega quindi storicamente a una fase precisa della nostra storia politica ed economica. Io non avevo strumenti economici, questi me li fornì direi Paolo Mazzanti, che era allora portavoce di Confindustria, era con Avete a quella famosa riunione di Maurizio Costanzo e stava studiando, mi disse, da 10 anni il problema del debito, e diceva: bisogna pur che ne usciamo in qualche modo. E constatò che lui stesso era stato avvantaggiato dal modo con cui si era governato, perché si era ritenuto di poter tranquillamente superare i limiti dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede che ogni nuova spesa sia coperta, per mettere sostanzialmente sulle generazioni future i propri debiti e il compito di pagare. Ecco, allora ci rendemmo conto che la situazione era grave. Io capii, per esempio, al Ministero, qualcuno mi disse in ragioneria: guardi che sono a rischio gli stipendi del prossimo mese. Dico: ma a questo punto? Sì, e nessuno se ne vuole rendere conto, perché prevalevano le proteste sostanzialmente. Lo Stato deve. Uscivamo da un 68, tra l'altro, in cui si era creduto che, da parte del mondo giovanile, ma non solo, che si potesse chiedere allo Stato qualunque cosa, perché lo Stato era onnipotente e cattivo, dunque picchiare sulla testa dello Stato era una buona cosa. Scoprire poi che noi dipendiamo dal modo con cui lo Stato funziona, perché siamo come su una nave e se la nave funziona male andiamo tutti a fondo, ha voluto dire: beh, facciamo la nostra parte. Se effettivamente ci si trova su una nave Il carico diventa eccessivo, perché il debito era proprio come un carico eccessivo che la squilibra, e io mi sono portato su una valigia pesante, ebbene io do una mano e come cittadino, come passeggero butto a mare la mia valigia, così la nave pesa meno. Certo, da solo faccio ridere, certo. Ma se lo facessimo tutti salveremmo la vita e perderemmo la borsa. Ecco, dal punto di vista probabilmente finanziario, a quanto ammontano i versamenti che sono affluiti al tesoro in questi anni per effetto dei vostri contributi volontari, più o meno? Guardi, sono andato a vedere nel bilancio dello Stato, e nel fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato c'è un capitolo, il capo decimo, che è abilitato a ricevere contributi anche volontari da parte dei cittadini, e in questo sono confluiti complessivamente una 53-54 milioni di vecchie lire. Qualcuno vi ha mai detto grazie, professor Corradini, per la vostra? No, assolutamente, anzi mi hanno guardato sempre con un certo senso di supponenza. Uno Stato gestito da persone credibili, oneste, sollecite del bene comune, può chiedere anche l'oro alla patria, ma se sono i primi a darlo. Se invece è, come dicevamo ridendo, l'oro alla patria, cioè loro, quelli che rubano, si impossessano dei beni pubblici per gestirli privatamente, si ottiene esattamente il contrario rispetto a quello che vorremmo noi. Bentornati alla seconda parte della Storia e la Memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla guerra del Vietnam. Il conflitto, iniziato nel 1960, vide il massiccio coinvolgimento diretto degli Stati Uniti d'America, che incrementarono progressivamente le loro forze militari terrestri, aeree e navali, in aiuto al governo del Vietnam del Sud, contro le forze insurrezionali filocomuniste, fino all'aprile 1975. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 8 ottobre alle 22 su History Channel. Il coinvolgimento americano in Vietnam inizia nel 1954, quando un trattato politico divide in due il paese. La Cina comunista e l'Unione Sovietica sostengono il nord, mentre gli Stati Uniti appoggiano il sud. Spaventati dal diffondersi del comunismo in tutta la regione, i presidenti Eisenhower, Kennedy e Johnson forniscono assistenza militare ed economica al Vietnam del Sud. Nella primavera del 1964 il Vietnam diventa una delle zone nevralgiche della Guerra Fredda. Più di 16.000 consulenti militari americani addestrano l'esercito sudvietnamita a combattere i guerriglieri locali conosciuti come Viet Cong. Con il supporto del Nord, i Viet Cong lavorano per sovvertire il governo sudvietnamita e riunire il paese sotto le regole del comunismo. Ma quella che inizialmente è una guerra civile sta per diventare altro. Quando sono arrivato qui era difficile credere che un panorama così incontaminato potesse nascondere decine di migliaia di infiltrati nemici. Solo i soldati sudvietnamiti hanno saputo riportarmi alla realtà. Hanno combattuto e sono morti in quelle giungle per quasi 10 anni, lottando per impedire ai nordvietnamiti e ai Viet Cong di prendere il controllo del loro paese. Il tenente 24enne Bob Cruel presta servizio come consulente militare per l'esercito sudvietnamita. Il nostro ordine è di accompagnare alle operazioni sul campo le unità dell'esercito che ci sono state assegnate. Il motivo principale per cui siamo qui non è attaccare il nemico, ma consigliare la nazione o la forza amica e lasciare che fosse lei ad attaccare. Più o meno è così che è cominciata. Nell'autunno del 1964 il governo sudvietnamita è politicamente in rotta, mentre le sue forze militari si sbriciolano sotto l'avanzata di circa 150.000 soldati Viet Cong che controllano quasi la metà della campagna sudvietnamita. Grazie alle armi e ai rinforzi forniti dal nord, i Viet Cong sono contadini di giorno e combattenti di notte, capaci di colpire e attaccare per poi confondersi nella giungla senza lasciar tracce. Sia i Viet Cong che i nordvietnamiti vedono la risoluzione del Golfo del Tonchino come una dichiarazione di guerra da parte degli americani e intendono combattere. Poco prima dell'alba del 1 novembre 1964, i Viet Cong lanciano un attacco a sorpresa su una delle quattro basi aeree americane nel Vietnam del Sud. È il primo attacco diretto alle truppe militari statunitensi all'interno del paese. Quattro americani vengono uccisi. Avevamo avuto consulenti e risorse militari nel Vietnam del Sud per anni e i Viet Cong non avevano mai intenzionalmente cercato di distruggerli. Il 23enne Joe Galloway è un corrispondente della United Press International. Per anni ha seguito da vicino il crescente coinvolgimento americano nel Vietnam. Eravamo sempre più coinvolti in quella che sarebbe diventata la guerra dell'America, il conflitto della mia generazione. Mi sono sempre ripromesso di seguire lo scontro, qualora ce ne fosse stato uno ai miei tempi. Ho cominciato a far impazzire i miei capi, chiedendo, pregando, supplicando un trasferimento per trovarmi sul posto dove ero sicuro stesse per scoppiare quel conflitto. Secondo l'allarme sono 8.000 gli uomini che stanno tentando... Il 7 febbraio 1965 le forze Viet Cong colpiscono una seconda base aerea americana. 8 soldati vengono uccisi e altri 126 feriti. Alcune settimane dopo l'attacco di Pleiku, il presidente Johnson autorizza una campagna di bombardamenti su larga scala nel Vietnam del Nord. Il nome in codice dell'operazione è Rolling Thunder e ha una duplice strategia. Bloccare i tentativi di guerra nordvietnamiti distruggendo bersagli militari e industriali e annientare la loro volontà di combattere, dimostrando lo straordinario potere americano. Il comando americano crede che entrambi gli obiettivi possano essere raggiunti in sole 8 settimane. Ma l'inizio di Rolling Thunder presenta un problema inaspettato. I piloti americani e gli aerei appostati nel Vietnam del Sud sono vulnerabili agli attacchi dei Viet Cong. Quindi, per proteggerli, i comandanti americani esigono per la prima volta l'invio in Vietnam di truppe di terra e chiedono l'approvazione del presidente Johnson. Johnson sa che le truppe di terra verranno viste dal popolo americano, così come dal Vietnam del Nord, come un passo verso una guerra più estesa. L'8 marzo 1965 alle 8:15, 3.500 Marines arrivano nel Vietnam del Sud con la nona brigata del corpo di spedizione. Per la prima volta dalla battaglia di Corea, le truppe di terra americane mettono piede in territorio asiatico. La metà di questi ragazzi non aveva mai sentito parlare del Vietnam prima di arrivarci. Ora si ritrovano nel bel mezzo dell'inferno. Il corrispondente della United Press International, Joe Galloway, è di pattuglia con un plotone di 40 Marines fuori dalla base aerea americana di Da Nang. Gli ordini sono strettamente difensivi. Molti ragazzi vengono da me, mi dicono come si chiamano e da dove vengono, in modo che io possa citarli in un articolo che le loro famiglie negli Stati Uniti leggeranno. Credo sia bello. Mi fa sentire come Ernie Pyle, che ha vinto un Pulitzer per aver raccontato la Seconda Guerra Mondiale dal punto di vista delle reclute. Avevo letto tutti gli articoli di Ernie Pyle e ho pensato che se devi seguire una guerra, è quello il modo di farlo. Ero rimasto molto colpito da come aveva narrato il conflitto della sua generazione e io volevo fare lo stesso. Seguire il più possibile da vicino i soldati. Questi ragazzi si aspettano di finire il lavoro e tornare a casa in un paio di mesi. Per quanto mi riguarda, spero non finisca troppo presto, prima di poter raccontare un po' di vera azione. Quando sono partito per questa missione, ho detto a mia moglie che sarei tornato prima della fine dell'estate. Immaginavo che un piccolo paese del terzo mondo non potesse mai competere con la nostra potenza di fuoco. Ora inizio a capire quanto mi sbagliassi. Il capitano Kit Connolly e i suoi compagni piloti stanno partecipando da 3 settimane all'operazione Rolling Thunder, la campagna aerea di 8 settimane, che ha l'obiettivo di bombardare il Vietnam del Nord fino alla sua sottomissione. Finora i risultati sono al di sotto delle aspettative. Ancora il capitano Connolly. Sembra che non importi quanto riusciamo a distruggere. I nordvietnamiti ricostruiscono tutto e noi siamo costretti a tornare a colpire di nuovo. I piloti erano molto frustrati. A volte tornavamo nelle stesse aree a colpire gli stessi obiettivi ripetutamente, senza comprenderne veramente il motivo. Così abbiamo capito che la guerra non sarebbe finita nel giro di qualche mese. Il 30 marzo 1965 i Vietcong fanno esplodere un'autobomba davanti all'ambasciata americana di Saigon. Vengono uccise 22 persone e ferite altre 183. Nei tre mesi successivi, le forze Vietcong continuano ad attaccare gli impianti americani e sud-vietnamiti in tutto il paese. Ma l'esercito sud-vietnamita è troppo debole per poterle fermare. Con il Vietnam del Sud vicino al collasso, il capo delle operazioni americane presente sul posto, il generale William Westmoreland, fa una richiesta di enorme importanza. Chiede al presidente Johnson il permesso di attaccare per la prima volta, di usare le truppe di terra per scovare il nemico e cacciarlo via dal sud. Il 28 luglio 1965, in una conferenza stampa trasmessa alla nazione, il presidente Johnson annuncia la sua decisione. I have asked the commanding general, General Westmoreland. Nell'autunno del 1965 arrivano nel Vietnam del Sud 150.000 soldati americani, 250.000 nordvietnamiti e Vietcong sono pronti ad accoglierli. I nuovi arrivati americani resteranno per più di quanto si aspettano. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Vietnam in HD, ricerca e distruzione. Regia Sammy Jackson, casa di produzione Lureda Production, titolare dei diritti AETN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 8 ottobre alle 22 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.